il ricchi pussi denti su quasi scomparote, solo qualcuno s'affaccia all'obertose. Ormai sono decaduti un punto in chiunenti, ormai finì lo tempo di quando erano potenti. Quando la gente ha una giavagliari, da mattina sera non s'avviano a lamentare. I ricchi possidenti sono quasi scomparuti, solo qualcuno s'affaccia all'obertoso. I ricchi possidenti sono quasi scomparuti, solo qualcuno s'affaccia all'obertoso. Lamentava, veniva castigato, perciò va a stare zitto, cornuto e bastinato. Quante si perchiarì, ci fecero la gente, ci levarono l'onore, la forza e le pensieri. Dopo tanti animali, erano giattate, e itti come porci, s'avevano ingrassate. I vecchi possidenti sono quasi scomparuti, solo qualcuno s'affaccia l'obertoso. I ricchi possidenti sono quasi scomparuti, solo qualcuno s'affaccia l'obertoso. Lo tempo per sta prefettatura, le figli di Vigliani su tutti professora, tutti ci mazza pari senza essere pagati, e i dubbi la rabbia sono tutti malati. Ci sta scattando cuore lo figlio della balia, che non ci sono più pecori, chiuso una luva dele. I ricchi possidenti sono quasi scomparuti, solo qualcuno s'affaccia l'obertoso. I ricchi possidenti sono quasi scomparuti,